606. Ciambelle, ossia bucellati, prima maniera. Farina finissima, chilogrammi 1,700. Zucchero grammi 300. Lievito grammi 200. Burro grammi 150. Lardo grammi 50. Latte decilitri 4. Marsala decilitri 2. Rum 2 cucchiaiate. Uova numero 6, bicarbonato di soda un cucchiaino, un pizzico di sale, odore di scorza di limone. Se siete precisi con le dosi indicate, la farina basterà per l'appunto ad ottenere una pasta di giusta sodezza. Per lievito, come ho detto altra volta, intendo quella pasta già preparata che serve di fermento al pane. Il limone da grattare deve essere di giardino. Sciogliete il lievito in una catinella con la metà del latte, facendogli prendere tanta farina da farne un pane di giusta consistenza. Dopo formato, lasciatelo stare in mezzo alla farina, in modo che ne sia circondato da uno strato più alto di un dito. Ponete la catinella in luogo non freddo, riparato dall'aria, e quando quel pane sarà ben lievitato, per il che occorreranno, a seconda della stagione, 8-10 ore, guastatelo e rifatelo più grande col resto del latte e della farina occorrente. Aspettate che abbia di nuovo lievitato e che sia ben rigonfiato, per il che ci vorrà altrettanto tempo. Versatelo allora sulla spianatoia ed impastatelo col resto della farina e con tutti gli ingredienti citati, ma lavoratelo ben bene e con forza, onde la pasta si affini e divenga tutta omogenea. Preparate dei teglioni di ferro o delle teglie di rame stagnate, unte col lardo e infarinate, e nelle medesime collocate le ciambelle che farete grandi a piacere, ma in modo che vi stiano assai larghe. Lasciatele lievitare in cucina o in altro luogo di temperatura tiepida e allorché saranno ben rigonfiate, ma non passate di lievito, fate loro con la punta di un coltello delle lunghe incisioni alla superficie, doratele con l'uovo e spargeteci sopra dello zucchero cristallino pestato grosso. Cuocetele in forno a moderato calore. Vi avverto che d'inverno sarà bene impastare il lievito con latte tiepido e mandare le ciambelle a lievitare nella caldana. Con la metà dose potete ottenere 4 belle ciambelle di grammi 350 circa ciascuna, quando non vogliate farle più piccole.